A bordo campo di Dario Ricci. In campo per l'Emilia. Beh, lo sapete, la squadra di Radio 24, soprattutto in questo periodo, come avete potuto ascoltare, è scesa in campo per raccontare l'Emilia del terremoto, ma anche l'Emilia della ricostruzione che sta ripartendo dopo le tragiche scosse del 20 e 29 maggio scorso. Ma in campo per l'Emilia che riparte è scesa anche la nazionale italiana sindaci di campo. Calcio che poi non è così male, perché ha vinto anche il bronzo di categoria negli europei delle varie nazionali sindaci, quindi insomma abbiamo anche dei discreti sindaci calciatori, ma chiaramente l'obiettivo è quello di avere soprattutto dei buoni amministratori. E allora oggi vi raccontiamo un po' la parabola di questa nazionale e soprattutto del suo impegno per l'Emilia che riparte dopo il terremoto. Allora, il nostro primo ospite è il presidente dell'ANCI e sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio. Benvenuto sindaco a Radio 24 e a Bordo Campo. Un piacere. Allora, presidente Del Rio, è un'Emilia che sta provando a ripartire dopo il terremoto del maggio scorso, anche e soprattutto attraverso lo sport. La nazionale dei sindaci è scesa in campo recentemente proprio per dare testimonianza di questo impegno anche sportivo, vero? Sì, assolutamente. Lo sport, come sappiamo bene, fa parte del nostro tessuto di comunità, fa parte della nostra vita quotidiana, e dopo il terremoto c'è bisogno di ritornare a giocare, di ritornare a scherzare, di fare lavoro di squadra. I sindaci hanno provato insieme alla nazionale degli attori e gli ex atleti a dare un momento di spettacolo. Grazie al credito sportivo abbiamo raccolto fondi. La nazionale dei sindaci, insomma, ha voluto dire che c'è un'altra squadra sempre in campo, che è quella appunto dei primi cittadini, che come sappiamo in questo terremoto hanno giocato un ruolo fondamentale, stanno giocando un ruolo fondamentale per ridare speranza e coraggio alle loro comunità. Quali sono invece le situazioni e i nodi dal punto di vista dell'impiantistica sportiva ancora da sciogliere? Beh, senz'altro c'è tutto il tema delle palestre, e quindi vi è un progetto scuola che è gestito ovviamente dal commissario e che prevede palestre prefabbricate al servizio delle scuole, perché la priorità è stata ovviamente la ricreazione della possibilità per i bambini di poter tornare a scuola. Dalla scuola siamo ripartiti e vogliamo ripartire dalla scuola, dai municipi, dalle fabbriche. Queste erano le priorità, e le scuole ovviamente hanno bisogno delle palestre, che poi alla sera vengono anche utilizzate dalle società sportive. Quindi intanto dobbiamo dire che le cose stanno avanzando bene, e appunto i campi sono stati liberati, le palestre sono in costruzione, e quindi le scuole sono state aperte. Credo che le cose stanno andando bene davvero da questo punto di vista, e vi sono contatti anche con l'Istituto per il Credito Sportivo per verificare possibili azioni di ulteriore sostegno appunto alla riqualificazione, alla ricostruzione delle strutture danneggiate. Quindi anche se le palestre e l'impiantistica sportiva non è stata ovviamente la priorità, però diciamo che collegato col mondo scolastico ha subito un'accelerazione anche la ricostruzione delle palestre. Ecco, ci può in qualche modo quantificare l'ordine di grandezza economico di questo impegno, pur chiaramente considerando che ogni caso fa in qualche modo storia a sé, ma quanto è stato fatto in termini di fondi e quanto ancora serve o servirebbe? Beh, il progetto scuola che ho citato vale da solo circa 30 milioni di euro, quindi quel progetto che include anche palestre prefabbricate. Per quanto riguarda la quantificazione, diciamo così, dell'impiantistica, cioè dei danni all'impiantistica, in questo momento ancora non c'è una quantificazione precisa, perché ovviamente i sindaci e tutte le strutture del sisma si sono attivate soprattutto per le abitazioni per le scuole, ripeto, per i municipi e per le fabbriche. Quindi c'è stato una ricognizione molto attenta su tutto quello che riguarda questi aspetti. Chiaramente superata l'emergenza, e l'emergenza da superare era quella di impedire che la gente rimanesse nei campi per l'inverno, e quindi è stata adesso questa sfida è stata vinta grazie appunto all'impegno della regione, dei sindaci che si sono impegnati in maniera così forte. Poiché questa prima sfida è stata vinta, adesso parte la ricognizione anche delle cose minori appunto come l'impiantistica. Quindi penso che in poco tempo riusciremo anche ad avere un quadro complessivo, grazie alla ricognizione dei sindaci, anche delle necessità relative a questo tipo di strutture. Situazione omogenea tra grandi centri e piccoli comuni, perché ci risulta, o meglio è cronaca ormai nota, che soprattutto nei piccoli centri le difficoltà economiche siano stringenti. Da questo punto di vista, fondi ci sono e in che entità? Beh, credo che il tema vero ormai non sia tanto il problema dei fondi, perché sono stati ottenuti con un'azione molto, molto precisa e molto puntuale, sia dal punto di vista, sia con gli accordi con appunto le banche attraverso appunto la mediazione della Cassa Depositi e Prestiti, sia con i fondi direttamente erogati dal governo. Il problema oggi è rallentare la burocrazia e aumentare l'efficienza. Cioè abbiamo bisogno ovviamente di fare la svelta, di avere poche pratiche burocratiche e molte risposte. Ecco, questo è il punto chiave che tutti chiedono a gran voce, e che purtroppo non dipende dalla buona volontà degli amministratori, ma dipende da una serie di regole e di norme che a volte costringono le comunità e il nostro paese a dei percorsi molto tortuosi. Quindi se dovessi dire di ciò di cui c'è bisogno ora è di un quadro di semplificazione delle procedure e di semplificazione burocratica. Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, presidente dell'ANCI, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie al presidente dell'ANCI, al sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, per essere stato nostro ospite. Ci ha intanto raggiunto un altro protagonista della Nazionale Italiana Sindaci e soprattutto sindaco attivamente impegnato in quell'Emilia che sta ripartendo dopo il sisma, Roberto Brunelli, sindaco di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. Ben trovato, sindaco. Grazie a voi. Sindaco, nazionale particolarmente attiva anche nelle zone dell'Emilia colpita dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorso. Siete scesi in campo con un'iniziativa di solidarietà importante, no? Indossando maglietta, pantaloncini e scarpini. Assolutamente sì, guardi, credo molto in quello che stiamo facendo e credo soprattutto che attraverso questo messaggio, che a volte è un messaggio ludico, perché una partita di calcio, tra l'altro insomma ce la caviamo, ma non siamo certo dei fenomeni a giocare a calcio, attraverso questo momento possa mandare molti messaggi. L'ho detto perché, come dicevo il giorno che abbiamo presentato a Reggio Emilia la cosa, perché mette in campo la possibilità di tante iniziative e soprattutto mette in contatto realtà del nostro paese assolutamente molto diverse tra di loro, ma che ci hanno in mente una cosa fondamentale, che è quella dell'utilizzare questo strumento per dare una mano a qualcun altro. Lo dicevo appunto in quella giornata, che le prime telefonate che ho ricevuto il giorno della prima scossa del terremoto erano quella di tutti i miei colleghi. Eravamo appena tornati tra l'altro dall'Europeo dei Sindaci in Polonia, è stata quella dei colleghi, mi hanno telefonato addirittura alle 7 del mattino per sapere se avevo avuto problemi, cosa c'era, se avevo bisogno di qualche cosa. E guardi, le dico la stessa cosa, abbiamo fatto le stesse cose per dei colleghi che hanno avuto problemi durante l'alluvione di Genova, ci siamo recati sui luoghi per dare una mano, abbiamo concretamente raccolto dei soldi per tutte queste popolazioni, quindi proprio una cosa fatta col cuore. Obiettivamente noi abbiamo sempre poco tempo da dedicare a questo tipo di situazione, ma facciamo delle centinaia di chilometri per poter essere tutti insieme a fare qualche cosa per qualcun altro. Allora, Roberto Brunelli, sindaco di San Pietro in Casale, grazie per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo, qui a Radio 24, e insomma, prossimi obiettivi con la nazionale sindaci in campo, dottor Brunelli? Abbiamo due interessanti obiettivi, una cosa che ci è rimasta nel cuore, che adesso tra l'altro è un tema che è piuttosto attuale, che è quella eventualmente di riuscire a fare un piccolo campo da calcio nelle zone della Palestina, che in questo momento sono anche piuttosto martoriate. Abbiamo un progetto piuttosto interessante nel cassetto e chissà che non riusciamo anche a mettere su qualche cosa anche oltre il nostro problema, diciamo così, del nostro territorio. È un progetto importante che ci siamo dati anche per dare un messaggio molto molto forte. Questo penso che sia una bella prospettiva per il Natale. Beh, appunto, obiettivo più natalizio di questo direi che non ce n'è. Esatto. Grazie mille sindaco e buona partita, buon lavoro. Grazie, la saluto. Un protocollo d'intesa per giocare e vincere insieme la partita più importante, quella della prevenzione rispetto al cancro. Beh, questa è la sfida che la Lega di Pallavolo Femminile e la Fondazione Veronesi hanno lanciato a partire da questa stagione agonistica, da questo campionato di Serie A, ed è questa la sfida che vi raccontiamo oggi qui a Bordo Campo, perché Fondazione Umberto Veronesi e la Lega di Pallavolo di Serie A Femminile, grazie anche all'opera di Master Group Sport, hanno firmato un vero e proprio protocollo d'intesa per sviluppare congiuntamente attività di informazione, prevenzione e dialogo di fatto con le migliaia di tifosi che ogni domenica seguono le partite nei palazzetti dello sport del campionato di volley femminile, affinché attraverso il dialogo con le giocatrici, attraverso queste iniziative, si possa sempre più fare opera di educazione alla prevenzione. Allora, protocollo davvero interessante, ne parliamo oggi. Abbiamo incontrato qui a Bordo Campo diversi ospiti. Partiamo allora proprio dal professor Umberto Veronesi, che così ci ha raccontato come è nata questa iniziativa. Gli obiettivi sono di stringere sempre più i rapporti tra la nostra attività e il mondo dello sport, il primo obiettivo. Secondo è dare una testimonianza dell'importanza dell'agonismo nella nostra società, che obbliga le persone a sfidare se stessi e a sfidare degli avversari che devono rispettare, conoscere, rispettare le regole, e quindi una grande scuola di vita. E terzo, in questo caso, perché noi siamo grandi sostenitori del mondo femminile, pensiamo che le donne abbiano delle grandi qualità e quindi è un'occasione buona per dimostrargli. Non mancano gli esempi di atlete, donne, anche della Lega Volley, che hanno sfidato e vinto la loro battaglia anche contro il cancro, vero? Questo può essere la strada da seguire. Qual è l'esempio che arriva? Beh, le donne che fanno sport sono di regola delle donne attente al proprio corpo, ovviamente, e quindi controllano se stesse molto spesso. E se c'è una piccola imperfezione o un piccolo tumore, lo scoprono precocemente e guariscono. Quindi l'obiettivo e la missione numero uno è la prevenzione, no? Bravo, proprio questo. Questa è la testimonianza del professor Veronesi, iniziativa importante anche perché è l'unica che quest'anno verrà sviluppata dalla Lega Volley femminile, quindi la Fondazione Veronesi è partner esclusivo per quest'anno con la Lega di Pallavolo della Serie A femminile, segno proprio di un rapporto particolare e anche di obiettivi peculiari. Ce li ricorda il presidente della Lega Pallavolo di Serie A femminile, Mauro Fabris. La pallavolo femminile è il primo sport come seguito per quanto riguarda le donne, le ragazze nel nostro paese. Il secondo è il fatto che l'attività sportiva ovviamente presuppone che ci sia una cura e un'attenzione particolare alla propria salute, al mangiare sano, a coltivare stili di vita positivi, e dunque in questo senso la Fondazione Veronesi ha scelto il mondo della pallavolo, appunto perché questi messaggi già li trasmette di suo, e dunque a maggior ragione è un testimone importante di che cosa significhi perseguire questi stili di vita. E poi perché noi quest'anno abbiamo scelto come Lega di concentrarci su questa unica iniziativa. Sono tante iniziative benefiche, importanti, che vengono fatte su tanti campi di gioco e non solo della pallavolo. Noi quest'anno come pallavolo femminile Serie A ci concentreremo invece a portare in giro per i nostri campi appunto il messaggio che riguarda la prevenzione, che è proposto dalla Fondazione Veronesi. Ecco, come si concretizzerà questa iniziativa? Beh, innanzitutto su tutti i campi fino alla prima giornata sono presenti i richiami ai messaggi che la Fondazione fa, richiamo all'attività della Fondazione, e quindi c'è già un'attività di divulgazione di questi messaggi molto semplici peraltro. Il tema della prevenzione di per sé è anche facile, come dire, da perseguire, proprio perché i messaggi e le regole, diciamo così, da osservare sono facilmente divulgabili. E poi faremo delle iniziative mirate giornata per dopo giornata sui diversi campi da gioco, di modo che appunto mantenere vivo questo messaggio e anche approfondire alcune tematiche. Quindi una volta si parlerà del mangiar sano, una volta si parlerà del come tenere d'occhio, diciamo così, il proprio corpo e quindi saper cogliere tutti i messaggi che il nostro corpo ci lancia e così via, insomma, quindi saranno giornate a tema che andremo a sviluppare nel corso del campionato. Qualche altra federazione, qualche altra lega si è fatta viva per seguire le vostre orme, visto che siete avanti a tutti, magari si può fare squadra anche in questo senso? No, noi non siamo affatto egoisti, abbiamo lanciato un messaggio e speriamo che tanti altri ci seguano. Ripeto, la particolarità è che però il messaggio deve essere lanciato da chi ha credibilità. In questo senso noi presentiamo un mondo che è assolutamente positivo, perché non abbiamo nessun fenomeno degenerativo, diciamo così, degenerante, che purtroppo in alcune discipline, insomma, anche magari molto diffuse, si toccano tutti i giorni. Quindi per essere portatori sani di messaggi positivi, appunto, bisogna stare in buona salute e il movimento della pallavolo femminile lo è. Protagoniste in campo anche per l'applicazione di questo protocollo e il suo sviluppo, le atlete, le campionesse. E allora abbiamo incontrato uno dei simboli della nostra pallavolo, Manuela Leggeri, capitano della River Piacenza e anche campionessa del mondo con quella splendida squadra del 2002 oro a Berlino. Sentite cosa ci ha detto. È un'iniziativa molto bella dal mio punto di vista, molto importante soprattutto per ciò che riguarda noi donne, anche perché, come hanno detto anche prima sia il professore sia Fabris, le donne sono maggiormente soggette a determinati tipi di tumore, come vediamo il caso di Leonora Lobianco. Però ecco, proprio il fatto che comunque ci sia sia nato questo connubio tra la Lega e la Fondazione Veronesi sicuramente dà maggiore importanza a tutto, perché come dicevo anche prima in un'altra intervista, cioè il fatto che sia successo a Leonora Lobianco e quindi sia un personaggio ha sensibilizzato sicuramente di più tutto il movimento. Però non bisogna dimenticare che queste cose succedono anche fuori, e quindi essere noi capitani, noi società, insieme alla Lega, insieme alla Fondazione, a rappresentare, a far sì che comunque lo sport sia simbolo di salute, di benessere, di prevenzione, sicuramente è un'iniziativa che dal mio punto di vista è molto importante. Importante anche il fatto che siate voi atlete in prima linea, perché nella pallavolo femminile più che in altri sport forse c'è il dialogo diretto con i tifosi, no? So che c'è un legame molto particolare, ci sono dei gruppi di sostegno per la singola giocatrice, fan club che veramente vi danno l'occasione di entrare in contatto e quindi poi conseguentemente di sensibilizzare. Credo di sì, concordo con te su questa affermazione, perché comunque c'è proprio un contatto diretto, lo si vede anche a fine partite, perché rimaniamo forse più tempo dopo le partite in campo che di tutta la partita stessa. Questo proprio perché comunque c'è questa sinergia, questa voglia comunque di coinvolgere anche il mondo che segue questo sport, che secondo me è uno sport bellissimo, è uno sport che comunque in generale anche lo sport, che non sia solamente pallavolo ma altro, rispecchia un po' la vita. E quindi credo, ecco, proprio il fatto, quello che diceva anche il dottor Veronesi, il fatto comunque del sacrificio, dell'impegno, della cura del proprio fisico, è simbolo proprio di salute, di benessere, di voglia comunque di prevenire il tutto. E allora Manu, grazie e in bocca al lupo per vincere tutte le altre partite, ma soprattutto questa, eh? Questo non lo dire, però crepi, grazie. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web, e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata. Giornata da Dario Ricci.